我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10:22播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏1998年在北京太庙演出的普契尼的歌剧《图兰朵》的实况录音，由托祖拉、拉林、富利托利等演唱，祖宾梅塔指挥意大利佛罗伦萨节日歌剧院演出，张艺谋导演。 Chiuso un po' la tua corona, la cerca te persegue, l'ansia sì noi padre nelle porta ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto t'ho pianto padre e bacio questa mano sante oh figlio senza regno e fuggente una voce sentì che mi diceva vieni con me sarò tua guida era lì sia benedetta ed io cadeva fronto Thank you. Io soffro, padre, soffro. Amalo, stringiti a me, e io parla di tu. Qui salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano. Signore, piano, tu. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Qui salvezza la vita, padre. Sono venturi degli enimi di Colombo. dove va salutando tutti, barca i monti, dalle flutti, dalla larga, dagli individui corazzotti. stucco, resta la reggia e resta la città. Siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince per le nozze e se gli perde, per sempre gli vengo. Io preparo le nozze lì alle esequie, le rosse lanterne di festa e bianche lanterne di lutto. Gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte, monete di zucchero, dolci moscate, il pepa, il chino scaldante per fatto, i ponti che cantano, i ponti che gelano, e tutto quanto il re. Thank you. Alla Cina la pace ridà, la si sogna e il palazzo già formicola la merda di servi di solar udite il cantaburo del vecchio verde già scritto le finite già vale di pechino udite trombe altro che pace ma inizia la cerimonia andiamo al hotel cinese di supplizio Thank you. Thank you. Oh,

Thank you. che vuoi, di tu che vuoi, è l'amore che cerchi tu che vuoi, di tu che vuoi. Oh! quel nome? Quel nome? Ma servo, siete per loro, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! vecchio è morta. Oh, e lì, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si vendica, thank you. Got it! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.